Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Voi due al lavoro. Un per favore sarebbe carino. Che hai detto, scusa? Ho detto che un per favore sarebbe carino. Chiariamoci, campione, non sono qui per dire per favore, sono qui per dirti cosa fare. E se un istinto di conservazione ancora lo possiedi, sarà meglio che tu lo faccia e subito anche. Sono qui per dare una mano. E se il mio aiuto non è apprezzato, tanti auguri, signori miei. No, no, no, signor Wolf, le cose non stanno così. Il suo aiuto è sicuramente Wolf, apprezzato. Ascolti, la mia non è mancanza di rispetto, chiaro, io la rispetto. Solo che non mi piace che la gente mi abbagli gli ordini, tutto qua. Sono brusco con voi solo perché il tempo è a sfavore. Penso in fretta, quindi parlo in fretta. E voi dovete agire in fretta se volete cavarvela. Perciò vi prego, per piacere, pulite quella cazzo di macchina. Time, questo è il titolo del brano, ma anche del disco che aspetta qualcuno fra voi sui tavoli del Sintetica di Firenze, dalle parti di Santa Maria Novella. La sera del 13 dicembre ci sarà anche Miss Kenichi da quelle parti a tenere un concerto gratuito. E visto com'era andata già con una precedente esperienza eclettica, assieme all'Audio Globe, che ringrazio, ho deciso appunto di mettere in palio questi CD ai più veloci che hanno scritto a Giulio e radiorockfm.com. Nella settimana ci sono in palio anche i biglietti per Marco Fabi alla Salumeria della Musica di Milano l'11 di dicembre. E con Miss Kenichi abbiamo aperto quindi questa quarta parte, che prosegue invece con un disco, ed è un'assoluta novità per quello che mi riguarda, che arriva dalla città di Pechino, anche se poi a metterci mano ci sono parecchi occidentali, però all'origine tutto arriva da Pechino per un disco che si chiama Jukebox Buddha, ed è proprio una Buddha Machine, l'oggetto, i cui suoni vengono rielaborati da una serie di artisti. È a metà fra il jukebox e non so cosa, cioè comunque produce una serie di suoni questa macchina, e fra coloro che ci hanno messo mano, per esempio, c'è Blixa Bargeld, oppure Adrian Sherwood, oppure anche, a me assolutamente sconosciuti, ma come sapete a me piacciono i suoni, piace la musica, piacciono le canzoni, questi Kammer Flimmer Collective, che sono appunto la traccia che io ho scelto per farvi ascoltare il Jukebox Buddha. E un bollitore per il tè? Con il beccuccio che all'uscita del vapore si apre e si chiude come una bocca e sibila belle melodie? O recita Shakespeare o semplicemente si scompisce dal ridere con me? Potrei inventare un bollitore che legge con la voce di papà, così riuscirei ad addormentarmi, o magari un intero servizio di bollitori che cantano il ritornello di Yellow Submarine, una canzone dei Beatles, che mi piacciono perché l'entomologia è una delle mie raison d'être, una espressione francese che conosco. Sarebbe bello anche allenare il mio ano a parlare mentre tiro le scoregge. A voler essere proprio spiritoso al massimo, potrei insegnargli a dire «non sono stato io» ogni volta che ne sgancio una di quelle incredibilmente toste. E se mai ne sganciassi una di quelle incredibilmente toste nella sala degli specchi di Versailles, che è vicino a Parigi, che è in Francia, naturalmente il mio ano direbbe «ce n'était pas moi». Questo è l'incipite di «Molto forte, incredibilmente vicino» di Jonathan Safran Foer. I've begun to worry, right? where I should be grateful, I should be satisfied. Oh, my heart, I would clap and dance in place. With my friends, I have so much pleasure to embrace. But my heart is returned to Sister Winter. But my heart is as cold as summertime. When I kissed your ankle, I kissed you through the night. All my gifts I gave, everything to you. Your strange imagination, you threw it all away. Now my heart La canzone natalizia di quest'anno. Non c'è solo una canzone, c'è un intero EP da parte di Sufjan Stevens. E così da 5 anni noi ci siamo ascoltati questa Sister Winter, magari non veramente natalizie nelle atmosfere musicali, non ci sono i tipici suoni che ci rimandano al Natale, però se ascoltate il testo avreste conferma di quanto vi ho detto. Ora è la volta invece di un disco che abbiamo cominciato ad ascoltare in settimana come pillola. Arrivano da Champaign, Illinois, si chiamano Headlights, Kill Them With Kindness è il titolo dell'album che esce per Polyvinyl Records, e invece TV è il titolo del brano. We'll be right back. sono l'uomo timorato. E il signor 9 millimetri qui, lui è il pastore che protegge il mio timorato sedere nella valle delle tenebre. O può voler dire che tu sei l'uomo timorato e io sono il pastore. Ed è il mondo ad essere malvagio ed egoista, forse. Questo mi piacerebbe. Ma questa cosa non è la verità. La verità è che tu sei il debole e io sono la tirannia degli uomini malvagi. Ma ci sto provando, Ringo. Ci sto provando con grande fatica a diventare il pastore. Con Games People Play da parte dei genovesi The Banshee si chiude la settimana di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, che si prende solo qualche secondo per ricordarvi gli indirizzi internet myspace.com/eclettica è uno, e giulio@radiorockfm.com è l'altro indirizzo da utilizzare anche nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera di Eclettica. grazie alla quale, per esempio, potete ricevere le playlist delle trasmissioni di settimana in settimana. È tutto per questa settimana e quindi vi rimando alla prossima.